Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, altri 10 punti su 12 come già nella giornata precedente. A questo punto le possibilità di un unplay italiano in qualificazione, cioè di 4 squadre su 4 alla fase a eliminazione diretta, sono concrete. Così come si va facendo strada la sensazione che non ci siano poi in giro squadroni fuori portata come invece si cominciava a intuire negli autunni passati, soprattutto quello scorso. E se dalle sensazioni passiamo alle suggestioni, la rimonta miracolosa dell'Inter mi ha fatto pensare alla nebbia di Belgrado, non saprei spiegare perché, ma insomma nel senso di un possibile punto di svolta. Non tanto di una serata quanto di una fase, magari di un ciclo. Esagero, caro Fabio Tavelli? No, buongiorno. A tutti. Non esageri. Magari sì, ma chiaramente stiamo parlando di due situazioni completamente suggestioni, diverse. Suggestioni. Suggestioni. Mm. Diciamo che la nebbia fu un episodio molto molto fortunato. Io devo dirti che ieri sera ho avuto una sensazione fortissima quando Milito ha segnato il gol del pareggio e mi aspettavo fosse sommerso dagli abbracci e dai complimenti di tutti i compagni. Invece praticamente se ne è tornato quasi da solo a centrocampo, sì. E quella è stata la sensazione che in quel momento l'Inter aveva la testa nella partita per vincerla e non solo per pareggiarla, perché il gol di Milito ha salvato la stagione da quel punto di vista. Non credo di esagerare, perché una sconfitta a Kiev avrebbe avuto ripercussioni pesantissime. Molto pesanti. L'aver pareggiato in quel momento e soprattutto non aver considerato quello un traguardo, ma semplicemente un passaggio verso un tentativo finale, che poi con un po' d'aiuto del portiere della Dinamo è stato portato a casa, mi ha offerto una sensazione di una squadra che potrebbe davvero aver svoltato anche in Europa, perché in campionato fa un campionato da sola, per cui deve semplicemente trovare una dimensione europea che fino adesso non aveva trovato. Poi ci sono un sacco di aspetti legati alla cabala, perché la serie di non vittorie di Mourinho era datata 4 novembre 2008 e guarda caso il 4 novembre 2009 quasi sì. A mezzanotte è arrivata la vittoria, sì. E poi tutta un'altra serie, perché insomma, le Champions League si vincono anche così, adesso io non voglio esagerare, non voglio dare troppa benzina sul fuoco, però ricordiamoci che il Barcellona a 20 secondi dalla fine l'anno scorso, la scorsa stagione, contro il Chelsea era fuori, certo. Poi ha vinto la semifinale, certo. Cioè è passata in finale e ha vinto facile, abbastanza facile, col Manchester United. Cioè ci sono davvero dei momenti nei quali si hanno delle sensazioni di svolta, e questa potrebbe essere davvero la svolta per l'Inter. Adesso arriviamo al discorso delle favorite o delle altre favorite. Volevo indugiare ancora un po' su Kiev, su ieri sera, in attesa poi di farlo con gli ascoltatori in diretta, con i loro commenti, per confrontare opinioni e punti di vista. Perché intanto ho letto delle pagelle che non condividono in modo più assoluto, con dei voti negativi per Balotelli, per esempio, perché a parer mio Balotelli ha cambiato completamente la partita in fase offensiva, dando profondità, dando spessore, al di là di un gol che ha sbagliato indubbiamente e di un paio di altre esitazioni, a parte il fatto che l'azione del gol determinante, che è un regalo del portiere, è vero, ma nasce da un suo colpo di tacco a Muntari, che è quello che tira. Questa è una. E poi devo dire, per la prima volta da quando Mourinho siede sulla panchina dell'Inter, ho visto una mossa decisiva che nasceva da un'interpretazione anche psicologica della partita, e cioè la Dinamo ormai non era più in grado, col suo capitano pensionato Shevchenko, non era più in grado assolutamente di creare alcunché di pericoloso all'Inter. E allora rinunciare a un difensore, già con un mare di attaccanti e di centrocampisti offensivi, rinunciare a un difensore per spingere ancora di più con Muntari sulla sinistra, mi è sembrato veramente una mossa geniale, non da tutti e non a caso premiata, perché viene da Muntari il tiro su cui poi nasce il gol della vittoria. Guarda, io su Balotelli io trovo che non ci sia in questo momento in Italia un giocatore come Balotelli. Si fa un sacco di chiacchiera su Cassano, ma io sinceramente sì. Quando Mario Balotelli è di luna buona lo trovo irresistibile, e trovo che lui ieri sera abbia contribuito davvero tantissimo alla causa dell'Inter, anche se non ha trasformato un gol che normalmente potrebbe fare. Mourinho fa spesso così, onestamente, vedendo nelle volte nelle quali l'Inter è stata in difficoltà, anche l'anno scorso Mourinho provava a buttare dentro tutti quelli che aveva, spesso vinceva facendo a spallate. avendo Ibrahimovic davanti, era una dimostrazione di forza che gli è riuscita molte volte. Altre volte tutto questo non è riuscito. È rischioso mettere in campo tutte le munizioni che hai, perché poi intasi le corsie, non hai più sfogo sulle fasce e impedisci ad esempio a Maicon, che ancora a livello europeo secondo me fa troppa fatica, c'è troppa differenza tra il Maicon, certo, in Europa, verissimo, e il Maicon in Italia. Insomma, gli vai anche a chiudere quei pochi sbocchi che può avere. Però è vero, le mosse ieri sera sono state tutte positive. Lui poi ha messo Zanetti un po' più dietro. Zanetti è un ruolo che può ancora fare, che forse gli può anche allungare la carriera. Sì. Quello stando un po' in copertura, tenendo presente che Maicon e Lucio sono due che vanno più spesso nella metà campo degli altri che nella loro. E in quel momento Mourinho sapeva bene che si giocava tutto e quindi alla guerra e ha messo in campo tutto quello che aveva. D'accordissimo, tanti messaggi. Sandro da Verona: Inter primo tempo da dimenticare, secondo da incorniciare. Molti messaggi naturalmente di interisti entusiasti. Uno secondo me di colore diverso, perché Lori da Milano scrive: Mourinho ha sbagliato ad abbracciare Julio Cesar, doveva abbracciare l'altro portiere. In effetti anche questa ci può stare, perché il modo, non tanto per il casino che combina alla fine dopo la ribattuta di Milito, ma per come si è coricato sul tiro di Montari, che sì, non aveva veramente, era un tentativo nobile ma non aveva pretese, no? Sì, lui è abbastanza svenuto sul tiro di Milito, però lì c'è una scusante, che Milito la prende male, sporca, sul primo gol secondo me lo tradisce, poi il terreno è ghiacciato, calcola che ma non c'è dubbio, non riesce a cambiare direzione quando ti sei già spostato da una parte. Poi lui invece sul gol di Snyder fa un errore sesquipedale sul tiro di Montari. Diventa comico sulla rimessa in mezzo di Milito, che non riesce a fare un tiro, e praticamente lui la aggiusta a Snyder e si fa anticipare. Insomma, comunque succede, perché i portieri, guarda che ce ne sono 5-6 buoni, e in questi 5-6 ci metto anche gli ottimi, ma poi per il resto il panorama è desolante. Abbastanza desolante. Il portiere del Bayern di Monaco, cosa ne combina ogni volta. Sono d'accordo. Guarda Van der Sar contro il CSKA a Mosca e ti risparmio quelli delle squadre minori. Sì. Capisci bene che, non voglio dirti il 70%, ma spesso più del 50% dei gol nascono da pesanti responsabilità dei portieri. Sono d'accordo. E quando Claudio Ramonza scrive quest'anno in Champions ci saranno sorprese, secondo me introduce il capitolo successivo. Sì. Abbiamo un minutino prima dell'intervallo, ma insomma... Io finora ho visto di squadre non fuori portata, ma di squadre candidate vere, ho visto il Chelsea. Ma è chiaro che a distanza di 6 mesi da abbondanti dalla finale è un po' presto per dire sia che c'è solo il Chelsea, sia che, non so, Barça, Real, eccetera, non si ritroveranno un po' di più. Però non mi sembra che ci sia quel gap che sembrava di intuire nelle ultime 2 stagioni rispetto alle nostre. No, certamente non c'è lo squadrone. Certamente il Barcellona è in una fase di flessione. È anche vero che siamo in una stagione diversa, che la Champions League vera si gioca in primavera. Sì, quindi sì, noi possiamo fare tutti i discorsi del mondo, ma poi in primavera essere smentiti. Devo dire che da questi microfoni, Gigi, l'abbiamo già anche detto in settembre, che cioè, si respirava un'area diversa, cioè alcuni squadroni come il Manchester United a me sembrano decisamente calati. Il Real Madrid non so quando riuscirà a trovare l'equilibrio giusto. Il Barcellona è comunque uno squadrone, di questo non ho dubbi, però comunque continua a far troppa fatica rispetto al passato. Il Liverpool probabilmente non andrà nemmeno agli ottavi di finale, e comunque devo dirti che il Liverpool di quest'anno non è una squadra che mi fa paura negli ottavi di finale. Trovo che, senza far troppo rumore, le nostre italiane possono andare tutte e quattro negli ottavi e a quel punto lì diventare dei clienti pericolosissimi, soprattutto Milan e Inter, credo. Ho l'impressione anch'io. Capitolo Fiorentina. E qui, Fabio, io credo che non sia tanto la partita di ieri sera perché insomma ci mancherebbe altro che non venisse battuto, e anche in maniera rotonda il De Bresseni. Battuto e ribattuto. E ribattuto. Perché, insomma, sono 6 punti in saccoccia. In casa. Però, ecco, credo che proprio dalla Fiorentina si possa partire per fare un pochino una disamina dei gironi, delle squadre già qualificate, di quelle non ancora, eccetera. Perché la Fiorentina, che dopo 4 giornate è a 1 punto dal Lione, ma soprattutto è 5 punti avanti al Liverpool, insomma, ha... a settembre, no? Parlavamo prima di settembre, poteva sembrare una botta da visionari, insomma. Sì, sì, certamente da tifosi della curva, ottimisti della curva Fiesole, sicuramente, certo. Cosa che non siamo ovviamente. Beh, due cose, intanto il calendario, avere il Debreceni alla terza e alla quarta giornata è stato un bel colpo per la Fiorentina, perché vuol dire aver già messo 6 punti. Uno dice, beh, tanto prima o poi li devi incontrare tutte, non è vero, perché incontrarle in alcuni momenti di classifica, sì, sì, quando ti dai punti freschi, è un po' come ricevere un bel prestito dalla banca quando ne hai bisogno. Quando ne hai davvero bisogno. Ecco, no? Non quando invece i soldi li hai già, è una cosa un po' diversa. In questo il Liverpool giocherà l'ultima giornata contro, la penultima giornata contro il Debreceni, e allora magari già se li contabilizza, però invece la Fiorentina già li ha, e la Fiorentina sa che se batte il Lione passa senza ascoltare il risultato del Liverpool e senza aver bisogno di andare magari a difendersi un po' a Liverpool. Dobbiamo dire anche un'altra cosa, il Liverpool ha perso 2 partite, una contro il Lione e una contro la Fiorentina, e quindi in questo momento merita di essere terzo. Sì. Cioè, il Lione ha battuto solo il Debreceni 1-0 con un gol di Kite, e poi per il resto, certo, ieri ha preso sto gol di Lisandro Lopez nella finale, una squadra senza Gerrard, ma una squadra comunque complessivamente meno forte, quindi in questo momento il Liverpool non è così pericoloso. Poi magari se te lo incontri nella fase dentro fuori, allora lì diventa difficile perché loro hanno esperienza e tutto il resto, ma in questa fase a gironi, in questo momento, il Liverpool è da terzo posto, cioè Lione e Fiorentina oggi meritano di stargli davanti. Con Fiorentina-Lione al prossimo turno, mentre poi la partita di Liverpool, se la Fiorentina dovesse battere Lione, la partita di Liverpool sarebbe con un Liverpool già eliminato, beh, insomma, le possibilità per la Fiorentina addirittura di vincere il girone non sono altissime, ma ci sono. E ci questo, sono. Esatto, e questo riguarda in realtà tutte e quattro le squadre italiane. Tutte e quattro, tieni conto di questo, che l'Inter ieri a 5 minuti dalla fine era quarta e alla fine è prima. Il Milan è nel girone forse più ingarbugliato, perché è primo, perché ha 7 punti ed è primo rispetto al Real Madrid. Però comunque ha il Real Madrid a pari e il Marsiglia a 6, quindi deve stare molto attento. A Milan-Marsiglia. Esatto, certo, perché il Marsiglia, certo, è dentro. La Juventus secondo me è tranquilla, perché il Bayern di Monaco ha 4 punti, e poi questo Bayern di Monaco qui, io non posso pensare che venga a Torino a vincere. E alla Juventus quindi basterà pareggiare in casa contro il Bayern, sapendo comunque di avere anche una partita col Bordeaux, un Bordeaux già qualificato, quindi non una cosa impossibile. L'Inter può anche perdere a Barcellona tranquillamente se batte il Rubin Kazan nell'ultima giornata, quindi Mourinho l'ha detto bene ieri, aveva già fatto i conti, secondo me li aveva fatti anche prima della partita, perché il risultato del Barcellona già si sapeva. A 9 punti si passa, e quindi 9 punti con una partita da scartare, diciamo che l'Inter perde a Barcellona, cosa possibile, l'Inter con 9 punti passa, non è raggiungibile. Se però l'Inter avesse voglia, ma non voglio dire avesse voglia, ma provasse il colpo, perché eliminare il Barcellona già adesso è, si può, perché cioè, se l'Inter vince a Barcellona rischia di far fuori campioni d'Europa. Assicuro. E quindi non solo, ma anche perché a questo punto la pressione è tutta sul Barça, non è più sull'Inter, totalmente. Perché l'Inter battendo Rubin Kazan all'ultima in casa e lì non c'è ha bisogno d'altro. Esatto, lì c'è solo una suggestione che si gioca l'8 dicembre, mi pare, uno di quei giorni lì, vado a vedere, il 9, perché insomma, sono giorni... È la settimana dopo Juve-Inter, si gioca Juve-Inter, credo sabato, non hanno ancora deciso, sarà sabato questo il punto. 5, no, è deciso, credo, deciso. 20:45 il sabato sera, 5, quindi c'è un Juventus-Inter, e subito dopo, 4 giorni dopo, il 9, e cioè il mercoledì, c'è un Inter-Rubin-Kazan. Lo dico perché l'8 e il 9 dicembre, visto che stiamo parlando di suggestioni, non sono mai state date particolarmente favorevoli all'Inter e nemmeno al Milan per partite casalinghe decisive, no? Sant'Ambrogio e dintorni non hanno mai portato, o comunque sì, ricordo io beffe storiche in passato tipo Bayern Monaco e che però insomma, nel frattempo c'è modo e modo di, e poi soprattutto la situazione è cambiata, e poi ancora c'è il fatto che al Camp Nou a questo punto è più un problema per il Barcellona che non per l'Inter. Non c'è dubbio, come visione generale sui gironi va segnalato che forse involontariamente da Platini e dalla rivoluzione, come dire, democratica di Platini, in questo momento rischiano pesantemente di andare fuori Bayern di Monaco e Liverpool, sono due piazze importanti per introiti, per ambiente e tutto il resto. Rischia il Real Madrid, e non dimentichiamoci che la finale è a Madrid, ma rischia anche il Barcellona. Le spagnole hanno già perso una squadra che è l'Atletico di Madrid e le inglesi rischiano di perdere il Liverpool. Io lo do per fuori il Liverpool, sinceramente non ci credo per niente. E quindi vorrebbe dire che se l'Italia fa il suo, e a questo punto il più è fatto, abbastanza il più è fatto, l'Italia potrebbe essere l'unica nazione di quelle importanti a mettere il 100% delle sue squadre negli ottavi di finale. Ed è importante anche a livello di punteggio UEFA, perché l'Italia era un po' calata negli ultimi anni e rischiava di non avere più il 3+1, cioè i tre direttamente alla fase a gironi e uno alla fase di qualificazione. Bisogna stare attenti alle squadre tedesche, però sai, già il Bayern di Monaco è mezzo fuori, il Wolfsburg ce la dovrebbe fare secondo me nel gruppo del Manchester United, lo Stoccarda forse ce la fa ma non è detto, quindi insomma se l'Italia fa 4-4 si garantisce un bel punteggio sul coefficiente, quindi anche per gli anni a venire. Chiuderei con un messaggio di Alessandro Apicella da Pavia, che dice: vedo ovunque molta fiducia sulla qualificazione della Juve, capisco che la sua situazione sia buona, ma non vincendo in Francia, scrive questo ascoltatore, arriverebbe a uno scontro diretto molto molto pericoloso con il Bayern. In casa è vero, ma in casa la Juventus fa più fatica che fuori, e questa è una riflessione indubbiamente. Ma diciamo che il Bayern batterà il Maccabi Haifa e comunque devo ancora vederlo, perché il Bayern sinceramente mi sembra in questo momento sì. Diciamo che il Bayern va a 7 punti, la Juventus perde contro il Bordeaux, per carità, può anche essere, ma può anche essere di no. In realtà la partita di Bordeaux conta solo se la Juventus la vince, sì. Perché se il Bayern, accreditiamo 3 punti al Bayern e portiamo la quota a 7, la Juventus essere a 8 o essere a 9 è la stessa cosa, perché può solo perdere lo scontro diretto, quindi in realtà la Juventus a Bordeaux ha solo un risultato interessante, che è la vittoria, per chiudere i conti. E poi insomma si gioca in casa contro il Bayern di Monaco, una sfida decisiva, può pareggiarla o vincerla, pensare che non sia favorita mi sembra sinceramente fuori luogo. Poi le partite si possono anche perdere, l'Inter può anche non battere Rubin Kazan, ma noi dobbiamo parlare prima e quindi dire che sono favorite, perché lo sono. Fabio, io credo che la disamina sia stata abbastanza completa. Me lo auguro. Direi che ti resta da ricordarci ti restano da ricordarci un paio di appuntamenti di campionato a questo punto per il sabato e per il fine settimana che arriva. Allora, partiamo dalla Spagna, secondo me, perché sì. Cioè, insomma, ci sarà il derby di Madrid e insomma, è un derby che l'Atletico non vince da una vita ed è un derby che insomma, sinceramente il Real Madrid... Ah, intanto, soprattutto sul Real Madrid, bisogna stare molto attenti perché non c'è Cristiano Ronaldo e non c'è ancora per un po', perché stiamo parlando di un ragazzo che oggi è andato in Olanda a farsi visitare dallo stesso professore che gli ha rimesso a posto la caviglia. Comunque, per dare un'indicazione, Atletico Madrid-Real Madrid si gioca sabato alle 22. E questa, diciamo che è una partita che vale tantissimo, soprattutto dal punto di vista ambientale, emozionale. E che con un sabato sera, forse più perlomeno al nord, può essere già un discreto modo, no? Sì, anche piegare. Perché non me ne vogliono i tifosi della Juventus, però Atalanta-Juventus diciamo che è una partita di minor fascino. Sì, e poi comunque alle 22, quindi c'è tempo di giocare sì. col telecomando. Però vi suggerisco per domenica... A che ora però? Che cosa? Quella di domenica? Quella di domenica pari di Chelsea-Manchester United, yes. Alle 16, Stanford Bridge, calcio di inizio. Questa è già un po' più una fregatura, perché al massimo vediamo il secondo tempo, direi. Beh, sì, bisogna vedere cosa c'è d'altro. Sì, insomma. Vabbè, cosa c'è d'altro lo ricordo tra un po' con il programma del campionato italiano e gli arbitri, ma è indubbio che se per caso era alle 17, insomma, tutto sommato avremmo preferito tutto qua. Guarda, adesso mi fai venire il dubbio, io lo sto vedendo sul sito della Premier League, quindi non so se è l'ora di Londra, ma non credo, secondo me alle 16, beh, in ogni caso insomma la possibilità di vederne una cospicua quota c'è, sì. Poi si fanno delle scelte, però insomma è una partita importante. Dunque, sul comunicato appena uscito da Sky, sul programma del sabato e della domenica, ore 17, Premier League, Chelsea-Manchester United. Quindi, navigo troppo sui siti stranieri, sì, quindi certo. Alle 17. Molto meglio così. Beh, dopo finito il campionato, no, ci possiamo anche rifare la bocca volendo con Chelsea-Manchester United. Buon calcio, quindi. Buon calcio, grazie Fabio. E buona giornata Gigi, grazie, saluti a tutti. Oh, e stasera vediamo come se la cavano le altre tre squadre italiane, sia pure nella categoria inferiore europea, cioè nell'Europa League. Si gioca a Genova alle 19, e il Genoa affronta il Lille. Alla stessa ora si gioca a Roma all'Olimpico con Roma-Fulham, mentre alle 21.05 Villarreal va in campo la Lazio. Molti messaggi, qualcuno merita anche qualche osservazione, però da troppo tempo sta aspettando Luca da Torino. Buongiorno. Sì, buongiorno. Beh, aspetto anche da quasi 45 anni, essendo interista. Questa non è male. E poi anche perché ero nato da poco. Comunque sono molto contento di aver trovato due gemelli gran professionisti, quali lei, dottor Guadagnini, e quale dottor Barelli, che comunque anch'io ho avuto quell'idea della nebbia di Belgrado ieri sera alle 11. Cosa devo dire? Quando vi ascolto siete di una straordinaria competenza ed pacatezza. E concludo, se posso, faccio i complimenti tramite Tadelli al signor Fabio Caressa, che ieri sera mi ha fatto venire quasi i luccicone agli occhi per il cuore del commento della partita. Per il cuore, per l'enfasi, insomma, mettiamola così. D'accordo, Luca, grazie. Lei già ha alluvionato di complimenti un po' tutti e quindi la ringraziamo. Allora facciamo così, dato che c'è una suggestione particolare oggi, lei ha, con quell' aspetto da 45 anni, mi ha fatto venire in mente, mi ha dato lo spunto per anticipare in scaletta una cosa di cui ci saremo occupati un pochino più tardi, e cioè del fatto che oggi è il centenario, oggi è una data insieme lietissima per gli interisti è triste per milanisti, romanisti e comunque anche per molta gente come me che non è nulla di tutto ciò, ma che insomma Anis Lidholm ha voluto molto bene. Oggi è il secondo anniversario della morte di Lidholm ed è un anniversario triste, ripeto. In compenso è il centenario della nascita di Angelo Moratti. E allora, visti questi suoi 45 anni che aspetta, le facciamo sentire in un breve frammento la voce del presidentissimo degli anni 60, di Angelo Moratti. L'Inter è stata creata nel 1908 e perciò è tra le più anziane e gloriose società del nostro calcio. Lo sport ha vicende alterne. Quello che l'Inter non perderà mai è il suo carattere e la sua combattività. Beh, insomma, mi pare che siano parole che, riascoltate oggi, come minimo sono profetiche. Antonio dalla provincia di Como, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, la seguo con stima. Grazie. Un aneddoto piccolissimo, poi l'ascolto per radio. Ieri, finito la partita, io interista, mio ragazzino, anche lui mi ha chiesto: ma secondo te la vinciamo la Champions quest'anno? E io gli ho risposto: se ci mettono il carattere di stasera, probabilmente possiamo vincerla. Ho detto una stupidata o gli ho detto una cosa sensata? L'ascolto per radio, grazie. A me tanto, secondo me a metà. Nel senso che, allora, sono stato io il primo oggi a parlare di suggestioni, di effetto nebbia da Belgrado, di tutte queste cose. Però non esageriamo, nel senso che l'Inter ieri sera ha vinto una partita meritatamente. L'ha vinta in maniera molto suggestiva, l'ha vinta in maniera anche straordinaria, se vogliamo, perché l'ha detto bene Tavelli prima, quando a tre minuti dalla fine comunque la salvi e hai portato a casa la pelle, si è visto invece immediatamente che c'avevano ancora la bava alla bocca per vincerla e non accontentarsi del pari, e tutto questo va in una casella. Nell'altra casella però stavano beccando dalla Dinamo Kiev a quattro minuti dalla fine, e se lei ha notato la Dinamo Kiev, cioè se lei ha messo per bene davvero sulla bilancia il valore della Dinamo Kiev di ieri sera, soprattutto nella fase in cui avendo il vantaggio tattico dell'1-0 avrebbe dovuto dimostrare insomma qualche qualità in più, insomma io non esagererei, ecco, sicché può darsi che lei abbia detto una grande verità anticipatrice, può darsi che abbia detto una fesseria tifoidea, ecco, mettiamola così, lo vediamo con calma. Fabio, Milano, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Stranamente sono in disaccordo, ma veramente rara accade, con lei e con il grande Fabio Tavelli. Sul primo giudizio inizio trasmissione, nel senso che una papera di un portiere fa diventare commenti su Balotelli straordinari. Io osservo molto la partita e non tanto le emozioni, che poi mi fa coinvolgere comunque Caressa. Balotelli ha perso due palle in anticipo con Mourinho che gli gridava dietro. Balotelli si è presentato davanti alla porta, ha sbagliato un gol che non voglio arrivare a citare i Baggio perché non serve. Comunque, che un fuoriclasse, come l'abbiamo descritto in questa trasmissione, non sbaglia. Io non ho mai parlato di fuoriclasse, Fabio, non mi faccia dire perché sennò mi inferociscono. Non ho mai parlato di Balotelli come un fuoriclasse. Ho detto, e Tavelli era d'accordo, che è un giocatore che ieri sera ha cambiato faccia all'Inter dando profondità d'attacco e dando più soluzioni d'attacco. Questo lo riconfermo. Poi possiamo non essere d'accordo, ma non mi faccia però dire che ho dato le fuoriclasse a Balotelli, Questo per dire soltanto, poi lascio l'ascolto per radio, che secondo me una papera di un portiere cambia veramente, persino il giudizio del papà di prima che si illude di questa emozione. Ma non c'è nessun dubbio, Fabio, che la papera del portiere è decisiva, l'abbiamo detto, l'abbiamo anche ripetuto, ho anche letto un messaggio di un'ascoltatrice che ironizzava, questo è vero, però lei non può nemmeno dimenticare che pochi minuti prima ha messo fuori di testa un pallone incredibile da mettere fuori, che era praticamente dentro, si dimentica un palo di Samuel, cioè se l'Inter non ha meritato nel secondo tempo di ieri sera di rimontare e ribattere la Dinamo, allora non, allora parliamo di un altro sport. Se invece ci dimentichiamo che l'Inter alla fine, pur avendolo strameritato prima, ha vinto anche in maniera fortunosa, parliamo davvero di nuovo di un altro sport. Evidentemente questo sport è difficile però da leggere con occhiali, non dico neutrali, ma comunque non tifoidei, ripeto. Mi sembra di capire questo dagli ultimi due o tre interventi, per quanto ci vidi, per quanto anche piacevoli. Francesco, provincia di Trento, riproviamo. Buonasera. Dica. Allora, è provincia di Trento per lavoro, sono della provincia di Latina. Sì. Inutili complimenti, perché se uno l'ascolta è chiaro che ha piacere. Te leggo quello che ho scritto. Bravo. Permette? Bravo. Inter, gironi di Champions, calcio estero fine settimana, Europa League, Moratti, Lidl. Le risulta ieri abbia giocato una squadra che ha vinto 5-2 italiana? Certo, ci risulta sì, Francesco, ne abbiamo parlato con Tavelli prima, abbiamo parlato della Fiorentina, abbiamo parlato con abbiamo ricostruito la situazione del girone, abbiamo detto che basta certamente un pareggio con il Lione la prossima partita per essere quasi certi di eliminare il Liverpool, abbiamo detto che più del merito della partita di ieri sera della Fiorentina c'è, resta quella vittoria chiave sul Liverpool, come fu descritta lo stesso. Adesso, se vuole, la cronistoria delle azioni dei 5 gol di ieri sera contro De Bresseni, può darsi che non ci sia tempo di farlo, che se non sia nemmeno opportuno. Ecco, se poi per un problema di se poi lei ritiene che una vittoria, facciamo così, se lei ritiene che Inter De Bresseni 5-2 in casa sia più importante di Dinamo Kiev Fiorentina 1-2 fuori casa a 3 minuti alla fine, quando la Fiorentina aveva vinto la morte in faccia, allora ha ragione lei e ha stravinto. Daniele, provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo chiamare per mettere un appunto, so che mi terrò tante in amicizia da parte dei tifosi dell'Inter, però Zanetti negli ultimi periodi, ok, dove lo metti lui gioca sempre bene, però nel gioco palla a terra che sta cercando di fare l'Inter in questo periodo, lui tende sempre a tenere la palla, a puntare l'uomo, a non passarla, e rallenta vistosamente le ripartenze dell'Inter, si è visto anche ieri sera. Che nei giornali voto altissimo, magari voto basso a Lucio, ecco. E poi, secondo me, se posso, l'ultima cosa, manca un vero terzino sinistro all'Inter, perché Chivu è un centrale, c'è niente da fare. Santon, quando gioca a sinistra, rientra sempre sul piede destro, stessa cosa fa Zanetti, e quindi forse Maxwell, che a Barcellona non gioca, forse adesso ci servirebbe. Questo è possibile, anzi direi che è abbastanza probabile. Su Zanetti l'ho pensata così per quasi la totalità della sua carriera. Devo dire che tra i meriti di Mourinho mi sembra ci sia quello di avere... è un vizio ineliminabile quello di Zanetti, no? di recapitare il pallone a domicilio. Non c'era una volta un mio amico allenatore, di cui non faccio il nome perché la battuta era un po' cosa, insomma, che gli diceva che Zanetti non conosceva la posta celere, nel senso che la consegnava di persona e parlava del pallone, evidentemente. Mi pare che con Mourinho questo difetto si sia molto attenuato. Io credo che credo che sia intervenuto decisamente l'allenatore da questo punto di vista e, ripeto, è un difetto che non si può eliminare a 36 anni o a quanto ha, ma comunque si è notevolmente circoscritto. Sentiamo anche Ivan da Como, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garanzini. Buongiorno. Volevo farle un assist, voglio regalarle il mio tempo dell'intervento e le chiedo un aneddoto di Nils Lidholm. Beh, sono tantissimi, guardi Ivan, avrei l'imbarazzo della scelta, guardi, facciamo così, preferisco ricordare l'affetto con cui Lidholm trattava, e parlo dell'anno della stella del Milan del 78-79, trattava Stefano Chiodi, questo centravanti sventurato che è morto ieri a 52 anni dopo una lunga e grave malattia. Lidholm sapeva benissimo che Chiodi quell'anno in cui il Milan vinse il campionato segnò un solo gol su azione, e ne segnò 6 su calci di rigore, che era un po' la sua specialità. Io ricordo l'ironia con cui Lidholm difendeva Chiodi dalle nostre, parlo nostre nel senso di cronisti, dalle nostre insomma riserve sul conto di questo giocatore, e il modo lieve in cui gli diceva: Stefano è essenziale per nostro gioco e per nostra manovra. Mi viene in mente questo, le ripeto, perché purtroppo è arrivata ieri la notizia della scomparsa di Stefano Chiodi. Un allenatore che azzecca i cambi, scrive Marco da Pesaro, è bravo o ha sbagliato qualcosa perché ha regalato un tempo agli avversari? Saperlo, caro Marco, questa è la domanda, è la domanda di sempre, da quando esistono i cambi. Probabilmente sono vere tutte e due le cose, è vero il fatto che i cambi, se parliamo di ieri sera, è vero il fatto che i cambi sono stati decisivi, è vero probabilmente che la squadra di partenza non era così azzeccata, però questo lo si dice dopo, perché è più facile evidentemente. Se l'Inter nel primo tempo era certamente più equilibrata, almeno sulla carta, poi perso per perso la squilibri, però è stato molto bravo Mourinho a squilibrarla a ragion veduta, soprattutto nella fase finale, ripeto, con la mossa di Muntari che ho trovato assolutamente geniale. Sì, c'è un attimo di pazienza per gli ascoltatori, perché rispettiamo la scaletta, anche perché la rubrica di Nicola Filippone di oggi è particolarmente ghiotta, ha trovato una chicca di 42 anni fa che vale la pena ascoltare. Sembra ieri. 5 novembre 1967. La Roma riesce nell'impresa di battere la Juventus a Torino per 1-0, merito di una prodezza di Fabio Capello, un promettente centrocampista arrivato dalla SPAL, cui il tecnico Ronzo Pugliese aveva subito dato fiducia. Capello segna il suo primo gol giallorosso al 76esimo, scavalcando con un pallonetto il portiere bianconero Anzolin, al termine di un'azione di contropiede avviata da Jair e rifinita da Taccola. Il sorprendente risultato del comunale permise all'unico 13 di giornata di incassare la cifra record di 344 milioni. La schedina vincente era stata giocata proprio a Roma. Pensate, due primati in un certo senso, no? Il primo gol di Capello, che credo non fosse il primo in Serie A, perché la SPAL allora giocava in Serie A e Capello ha certamente segnato nella SPAL, ma il record di allora di vincite al Totocalcio con 344 milioni grazie a quel gol, perché la Roma di quegli anni era una buona squadra, ma certamente non era una squadra accreditata di vincere sul campo della Juventus. E proprio quel gol, tra l'altro, fu una delle ragioni per cui la nuova Juventus, che sarebbe nata lì a 2 anni, si sarebbe poi ricordata di quel regista molto bravo, con la capacità anche di andare a rete. Ha chiamato Danilo da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a tutti. Avevo 20 anni in quel periodo lì. Bei ricordi. Niente, chiamavo perché sono milanista e ho visto la partita e sono assolutamente d'accordo con lei. L'Inter ha meritato di vincere, assolutamente. Ho incontrato un amico, un aneddoto, lo dico per gli interisti. Ho incontrato un amico interista che ha detto che aveva la voce, che non ce la faceva più, quello che ha passato, dice, è stata una cosa tremenda. E io gli ho detto, sai quante volte l'ho passata io con Inzaghi, quei momenti lì? E lui si è messo a ridere, confermato. Ho detto, allora, dico, è più bello la Coppa dei Campioni o il campionato? No, fa, dice, la Coppa dei Campioni, dice, ha tutto un'altra cosa. Allora, voglio fare un appello agli interisti. Abbiate una volta la tranquillità, il coraggio di dire che non è facile, che quello che ha fatto il Milan è una cosa che poche squadre sono riuscite a fare, che è veramente molto ma molto difficile. Complimenti ancora all'Inter e forza, è andata avanti. Grazie. Grazie Danilo. Oggi le ho già sentite elencare due pregi di Mourinho. Siamo alla conversione, domanda Paolo. Nemmeno per idea, siamo all'obiettività, dal mio punto di vista, nel senso che le dirò di più, che avrei detto le stesse cose se per caso anche l'Inter non avesse trovato quei due gol alla fine, perché comunque la squadra nel secondo tempo era stata rivoltata come un guanto. Invece di subire la partita come nel primo, l'ha presa in mano, e a maggior ragione l'ha presa in mano alla fine, quando la Dinamo ormai la metà campo non la passava più, e tanto valeva levare un centrale e inserire un uomo di spinta in più come è stato Muntari. Poi è libero lei ovviamente di crederci o di non crederci, su questo non posso intervenire. Allora facciamo diamo un'intervista campione delle vigilie delle tre partite di stasera, che ripeto chiamano in causa Roma e Genoa in casa e Lazio fuori. Sentiamo Gasperini. È una partita sì decisiva, nel senso che per i fini della qualificazione è importante, è necessario vincere. Lille è un'ottima squadra, però ci conosciamo, abbiamo visto la partita dell'andata, e questa sarà, nonostante il risultato pesante, però questa sarà un'altra gara. Siena verrà dopo, Siena verrà alla fine, verrà domenica, ci penseremo poi da venerdì. Cosa abbiamo? Abbiamo ancora sì un paio di minuti. Allora, Ivo ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo dire proprio che non sono assolutamente d'accordo con quello che diceva lei su Mourinho, perché proprio questo è proprio sbagliato partito un'altra volta. E poi io, se mi permette, volevo dare il merito alla Dinamo, perché una squadra così giovane che si comporta in quel modo lì, cioè, ha detto, è straordinario. E poi un'altra cosa, faccio un appello a togliere Bagni da dove, dalla Rai. Dove ha sbagliato Mourinho ieri sera? Ha avuto una grande fortuna, non ha sbagliato. Questo non è un errore, quello di avere fortuna, perché sennò Sacchi. Anzi, è una qualità in più. Infatti ci sta tutto. Però se ha avuto avere fortuna è un conto, ma gli errori di cui lei ha parlato, quali sono? Ha lasciato il primo tempo, l'ha lasciato in mano alla Dinamo Chiesa, cioè. Non so, facciamo dei paragoni di squadra, cioè Dinamo Kiev, Inter, cioè non so, solamente il peso economico di uno e il peso economico dell'altra a livello di valutazione. Ah, ecco, il peso economico, sì, no, su questo la seguo. Il peso economico mi fa venire in mente quelle ridicole frasi del giorno prima sul fatto che Platini ha attaccato l'Inter alla vigilia di una partita importante e l'arbitro era anche francese. Credo che se c'è una persona di cui l'Inter giustamente e come deve essere sempre, non si può lamentare ieri sera, credo che sia l'arbitro francese. Allora, domenica si riparte con Atalanta-Juve, arbitro Morganti, si riparte con Lazio-Milan, arbitro D'Amato, si riparte con Inter-Roma la sera di domenica, perché Atalanta-Juve in anticipo del sabato, si riparte con Inter-Roma, l'arbitro è Rocchi di Firenze. Siamo arrivati in chiusura anche oggi del nostro appuntamento, grazie a Flavio Soardi in redazione con l'aiuto di Franco Piantanida, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi lascio al giornale radio.